Capuano al volo! Capuano! Che gol di Capuano! Quasi da centrocampo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. A sinistra è salito Calazze. Saranno tre minuti di recupero. Kakà, c'è Lucius su di lui. Kakà, il cross Ambrosini, rete Ambrosini, incredibile. Meno male amici, meno male allo spegnere delle luci, è stato ancora una volta, se non mi sbaglio, Kakà che ha proprio, è grande, grande veramente azione, e qui chiude l'avventura il signore del PSV. Noi eravamo senza parole, non parlavamo più perché non sapevamo più cosa dire, ma a questo punto, eccolo qua, grande colpo di testa di Ambrosini, gol straordinario. E dunque sarà il Philips Stadion a Eindhoven il 20 agosto alle 20:45. Sarà il palcoscenico dove partirà la stagione del Milan, che poi è anche la porta d'ingresso della stagione delle italiane nel calcio europeo. PSV Milan, così ha detto l'urna di Nyon, come nella semifinale del 2005 lo abbiamo sentito, il gol di Ambrosini praticamente in tempo di recupero, un gol che fece godere i tifosi rossoneri, anche se poi il destino aveva disegnato la beffa di Istanbul. Poteva andare meglio perché nell'urna c'erano anche avversari più morbidi, penso ad esempio ai portoghesi del Paços Ferreira, però poteva anche andare peggio, basti pensare che tra i preliminari c'è anche un Arsenal Fenerbahce che potrebbe tranquillamente valere un ottavo di finale. 800 24 00 24 per dirci in diretta cosa ne pensate del sorteggio, delle notizie di mercato, poi anche quelle di Balotelli, tra poco vi dico tutto. 349 238 6666 per i vostri messaggi, potete anche seguirci su Twitter, @ tutti convocati. Rapidamente le altre italiane che erano impegnate oggi nel sorteggio di Nyon, quelle per l'Europa League, la Fiorentina se la vedrà con gli svizzeri del Grasshoppers, mentre l'Udinese ha pescato lo Slovan Liberec. Buon pomeriggio a Franco Ordine, inviato del giornale. Ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio. Com'è andata al Milan? Così così, diciamo non benissimo, ma nemmeno da mettersi le mani nei capelli per chi ne ha, e quindi diciamo un impegno medio alto tra 0 e 10, diciamo che vale tra il 6,5 e il 7 il PSV Eindhoven, una squadra che diciamo non ha grandi nomi, non ha grandi giocatori, ma dispone diciamo delle due qualità che fanno del calcio olandese un cliente sempre molto pericoloso, velocità e tecnica. Sì, nel giochino delle stellette, quello che questa mattina hanno pubblicato quasi tutti i giornali, soltanto il Fenerbahce probabilmente aveva le 5 stelle e aveva un valore, almeno in sede di pronostico, superiore rispetto al PSV. C'era di meglio, abbiamo detto, del Paços Ferreira, ma valeva anche per il Metalist, che pure poteva essere un'incognita, e quindi attenzione quando si conoscono poco le squadre. Questo PSV, rispetto a quello che l'anno scorso ha maltrattato il Napoli in Europa League, ha perso giocatori importanti, perché soprattutto ha perso Strootman, che è andato alla Roma, e ha perso Mertens, che è andato al Napoli. Però tutti gli osservatori attenti del campionato olandese invitano a non sottovalutarlo, e non soltanto perché la stagione è iniziata il 2 agosto in Olanda. Non solo, ma ti dico che solitamente in questi casi il fatto di cominciare fuori autorizza una sorta di leggero ottimismo. Io invece dico che proprio questa è la trappola, perché è lì che probabilmente il PSV Eindhoven darà il meglio dal punto di vista della serata e anche diciamo della possibilità di mettere sotto il Milan, e quindi sarà quella diciamo la vera trappola del turno preliminare o di playoff, come si usa dire adesso in queste circostanze. Sì, sarà una gara d'andata nella quale ci sarà Mario Balotelli, perché la grande paura è svanita dopo una notte. Ieri nel tardo pomeriggio, prima serata, il comunicato che annunciava dei guai muscolari con esami da compiere all'arrivo del Milan in Italia dopo la tournée statunitense, esami che sono stati completati questa mattina, che hanno dato esito fortunatamente negativo. Dunque Mario Balotelli abile e arruolato per il doppio preliminare di Champions, credo franco anche per la nazionale, per la sfida del 14, o no? Beh, penso che a questo punto, con questo esito, sarà impossibile evitare la convocazione da parte di Mario Balotelli, anche perché mi sembra che il ragazzo giovanotto sia molto interessato all'incontro col Papa, cioè quindi ha una vicenda che esula dall'impegno calcistico. Qui poi starà all'intelligenza e alla capacità da parte di Prandelli di gestire gli uomini e anche i suoi programmi, magari utilizzandolo soltanto per un tempo e procedendo poi nel secondo tempo a l'inevitabile turnover, perché le sfide amichevoli di metà agosto sono sempre state da questo punto di vista molto molto pericolose. Possiamo farti sentire, così facciamo sentire anche i nostri amici a casa, Gagliani oggi all'arrivo a Linate, di ritorno dalla trasferta statunitense, ancora non si conosceva l'esito degli esami di Balotelli, però è curiosa la risposta che Gagliani dà a proposito dell'impiego eventuale di Balotelli in nazionale. Sentiamolo, parla anche di Honda. Ci puoi dire se è preoccupato per le condizioni di Balotelli? Non lo so, adesso sta andando a farsi vedere, quindi speriamo che non sia nulla di grave, speriamo, adesso aspettiamo. Sì, molto, molto, stiamo giocando bene, stiamo, a differenza dello scorso anno, si vede che è una squadra che sta assieme da un anno e sta giocando molto bene, mi piace il gioco, mi piace questo 4-3-3, quindi direi soddisfatto, sì. Ma no, ma Honda, voglio dire, Honda lo sappiamo tutti, arriva gennaio, se vogliono darcelo prima bene, se no aspetteremo gennaio. Balotelli in nazionale? Balotelli in nazionale, come dice? Balotelli in nazionale sarebbe da evitare, insomma, visto che è un amichevole. Ma scusi, vediamo cosa dicono i medici, noi non è che rifiutiamo mai i giocatori della nazionale, adesso si tratta di capire un minimo di pazienza e vediamo che cosa dicono i medici, solo quello, nessuno vuole togliere il giocatore della nazionale, mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro, Franco, anche se mi pare di aver capito dalle tue parole, il Milan si aspetta comunque intelligenza e attenzione, un po' come la Juventus che ha fatto trapelare che Barzagli non sta benissimo e gradirebbe che gli venisse evitata l'amichevole contro l'Argentina. Di questi tempi, non soltanto di questi tempi, è il solito ritornello, soprattutto quando ci sono, mentre per la Juve obiettivamente non ci sono alle viste appuntamenti particolari, se non quello del 24 agosto che è l'inizio del campionato. Sì, c'è la Supercoppa in mezzo, Franco, il 18 sì, con la Lazio. Sì, ho capito, però obiettivamente quella è una cosa sulla quale si può anche sorvolare, invece il preliminare di Champions obiettivamente è uno spartiacque fondamentale per il Milan, per il suo bilancio e anche probabilmente per la credibilità di Allegri e della sua panchina. Per cui insomma sono giochini estivi che insomma in qualche modo siamo un po' abituati e che in qualche modo devo dire bisogna che ci ti metta nel conto, però devo dire che la dichiarazione di Gagliani mi sembra molto corretta, cioè dice vediamo cosa dicono i medici, dopodiché nessuno vuole negare Balotelli alla nazionale. Adesso i medici hanno detto esami dall'esito negativo e quindi credo che ci sia via libera. Ti è piaciuto il Milan visto negli Stati Uniti, Franco? A me personalmente sì, anche se, e poi ne parliamo perché parliamo anche del caso diplomatico che è scoppiato oggi ufficialmente per la questione Honda tra il Milan e il CSKA di Mosca, anche se ho l'impressione che Gagliani stia facendo un po' da parafulmine, da ombrello su Allegri, ha detto chiaramente che questa squadra in questo momento deve giocare con il 4-3-3, quindi altro che trequartista come no, era stato pattuito a giugno. Ma non è che deve giocare, no, ma guarda che il punto è, non è che deve giocare perché lo impone qualcuno, il trequartista due ce ne sono a disposizione e sono tutti e due out, Robinho e Saponara. Robinho poi sarebbe comunque non il suo ruolo naturale, ma sarebbe comunque una soluzione d'emergenza. Honda è ancora lontano, quindi non c'è proprio la possibilità materiale di utilizzare il 4-3-1-2. Ci sarebbe anche Boateng, che a questo punto è bocciato in quel ruolo. Ma più che bocciato, non mi sembra che abbia insomma le sue migliori caratteristiche, non le offre in quel ruolo. Ora, non avendo a disposizione nemmeno per l'ultima amichevole con i Galaxy, ha procurato il 4-3-3. Questa è una squadra che diciamo conosce meglio questo tipo di spartito, e quindi sta, tra l'altro sta giocando molto bene secondo me dal punto di vista proprio della qualità, cosa che le è mancata l'anno scorso, in cui Balotelli effettivamente nel semestre del 2013 ha, diciamo, coperto molte magagne. Io devo dire, sono abbastanza soddisfatto, non me l'aspettavo, devo dire, così in condizione. Questo è il merito naturalmente del cambio clamoroso che c'è stato di preparazione fisica, che probabilmente ha anche prodotto qualche contrattempo e contraccolpo dal punto di vista degli infortuni, perché come avrai visto gli infortuni sono belli lunghi, saranno 7-8 i giocatori che si sono fermati a vario titolo a causa di acciacchi muscolari. Sì, anche per questo credo l'altra notte a Miami Galliani si è precipitato dalla tribuna alla panchina e poi agli spogliatoi per capire che cosa era successo a Balotelli. Per chiudere discorso Onda, io leggo la dichiarazione durissima, anche il rituale da un certo punto di vista, di Eugeni Giner, presidente del CSKA di Mosca. Onda non sarà ceduto ai rossoneri, non per 5 milioni e nemmeno per 10. Non potremo mai tollerare un comportamento irrispettoso. Il Milan ha contattato Onda all'inizio del 2013 quando non aveva il diritto di farlo. Noi abbiamo detto agli agenti di essere aperti a normali negoziati, ma se pensano che cederemo soltanto perché mancano alcuni mesi alla scadenza del contratto del giocatore, allora si sbagliano. Il primo luglio inoltre il Milan ci ha proposto di accettare uno scambio fra Onda e una loro riserva. Quale pensate che potesse essere la nostra reazione? Il giocatore dice che nei prossimi giorni ci sarà ancora un contatto tra i due club. Lui spinge, anche se ha voluto precisare di non essersi mai offerto per la riduzione dello stipendio, come era stato scritto in Italia. Ci aiuti a capire che cosa succede? Succede, guarda, quello che succede in queste circostanze, in cui c'è un club che porta il proprio giocatore a scadenza di contratto e anziché prendersela con se stesso, perché nel frattempo non ha provveduto a prolungare il contratto in modo da avere la possibilità di avere la disponibilità completa del giocatore, se la prende con chi si mette d'accordo col giocatore nei termini e nei tempi previsti dai regolamenti. Ora loro non lo vogliono cedere né per 5 né per 10 né per 100, va bene, non lo cederanno, il Milan lo prenderà a gennaio a parametro zero. Gennaio a parametro zero, risparmia un bel po' di milioni con buona pace anche del presidente del CSKA a Mosca. Ma arriva o no il regalo per Allegri? Perché oggi ad esempio l'unico... il Corriere dello Sport scrive il regalo è Onda, ma se non dovesse arrivare entro la fine di agosto ho l'impressione che Allegri qualcosina si aspetta. L'altra possibilità immediata è quella di Liali, cioè anche lì bisognerà vedere come evolve la trattativa. Per il momento mi sembra che butti male, perché anche Della Valle considera lui e la Fiorentina possono trattare i giocatori diciamo in semi scadenza di contratto, gli altri invece non possono farlo, come è successo alla Juventus con Jovetic o al Milan con Liali. È una curiosa, diciamo, concezione del calciomercato. Sì, comunque è una trattativa che si è incarognita, questo possiamo dirlo. Sì. Ci sono due precedenti, la Fiorentina bloccò Toni che doveva andare all'Inter, la Fiorentina alla fine ha pilotato Jovetic lontano dalla Juventus. Io fossi nel Milan non ci scommetterei troppo sulla possibilità di prendere Ljajic, ma magari, magari questa volta il mercato disegna un finale diverso a questo tipo di vertenze. No, ma tutto sta nelle mani di Ljajic, diciamocelo francamente. Se Ljajic non prolunga il contratto, la Fiorentina o fa come Montolivo, che se lo perde a zero dopo un anno, o lo vende al Milan. O lo vende al Milan. Quindi tutto è nelle chi decide, è Ljajic. Va bene, grazie Franco. Saluti. Grazie Franco Ordine, inviato del Giornale. Io vi ricordo il numero per dirci in diretta che cosa ne pensate, 800 24 00 24, potete seguirci anche su Twitter, @ tutti convocati. Filippo dice è inaccettabile definire trascurabile la finale di Supercoppa per la Juventus, trascurabile se si paragona al peso del preliminare di Champions League che da solo dà il senso di una stagione, oggi lo scrive la Gazzetta dello Sport, sono due partite, quelle contro il PSV Eindhoven che va valgono una cinquantina di milioni. Da questo punto di vista probabilmente non esiste nemmeno nessuna partita di campionato della prossima stagione che vale per il Milan quanto vale questa doppia sfida contro il PSV Eindhoven. Da questo punto di vista certamente il peso della Supercoppa è trascurabile, anche se evidentemente anche quello è uno snodo importante, soprattutto è il primo trofeo di questa stagione che va ad aprirsi. Allora andiamo a Roma. Lucio, buon pomeriggio. Sì, salve. Prego. Salve, io chiamavo per fare due appunti. Dica. Riguardo quanto detto dal giornalista Franco Ordine. Uno in parte già è stato snocciolato, perché chi ha scritto prima di me l'ha in parte detto. In sostanza il signor Ordine parlava un po' in maniera leggera della finale di Supercoppa, quando invece è il primo titolo che si assegna della stagione, per cui secondo me non è una cosa proprio così. No, ma Lucio, però io poi non devo fare il difensore di Franco Ordine, no, e nemmeno farne l'esegesi. Era soltanto un appunto. Assolutamente, però mi sembra chiaro il discorso. Evidentemente la Supercoppa è importantissima. Io le dirò di più, anche ritornando indietro di un anno a cosa è successo a Pechino e a per quanto le polemiche di Pechino poi si sono trascinate sulla stagione, questa è la partita che dà l'impronta anche dal punto di vista arbitrale a tutta la prima fase del campionato, quindi è importantissima. Il valore economico della doppia sfida di preliminare però è un altro. Prego Lucio. Ma questo senz'altro, però quando si parla, visto già gli acciacchi che ha avuto nel finale di stagione e poi anche nella Confederation Cup, Barzagli, che comunque voglio ricordare ha passato da un bel pezzo la trentina, non mi si può venire a parlare di giochini da parte della Juventus, perché a questo punto veramente, come diceva l'ascoltatore precedente che mi ha preceduto, lo ritengo un po' offensivo. L'altra cosa che volevo dire riguardo invece il discorso del Milan, un po' la stizza che si è creata con il CSKA di Mosca, e anche loro ne hanno ben d'onda, nel senso che se è vero che Galliani ha contattato Honda, come io credo che sia, nella prima parte del 2013, andando poi in sostanza a vanificare poi da parte del CSKA qualsiasi tentativo magari di un rinnovo di contratto, io credo che siano comunque atteggiamenti da un grande dirigente italiano che valgano stigmatizzati, e non mi sembra giusto parlare poi del fatto che debba essere il CSKA a piangere se stesso per aver sbagliato a non rinnovare prima. Tutto qui, io credo che poi quando si lavora in maniera limpida, lineare, tutti quanti abbiano sempre da guadagnarne, ecco, tutto lì. Va bene, va bene, grazie Lucio. Io non so se Galliani ha contattato gli agenti di Honda nella prima metà del 2013. Se il CSKA deve fare una denuncia la faccia, la farà certamente. Io dico, parlando di Ljajić ad esempio, che eventualmente non è solo il Milan a essersi mossa in maniera scorretta in questi giorni, in tanti stanno scrivendo ma nessuno l'ha smentito, in quanti stanno contattando ad esempio gli agenti di Zuniga, l'Inter, la Juventus, addirittura si è scritto di una telefonata di Mazzarri al giocatore. Da un certo punto di vista sono i giochi di mercato, spesso sono al limite rispetto a quelli che possono essere i regolamenti, però ha ragione, insomma, e tra l'altro è giusto anche sottolineare la stizza del CSKA di Mosca e questa denuncia del presidente. 800 24 00 24, mi interessa anche il discorso, capire che cosa ne pensate ad esempio dell'impegno della nazionale. Prandelli tra qualche ora diramerà l'elenco dei convocati, a questo punto io credo ci sarà sicuramente Balotelli. È interessante capire anche che cosa succederà ai giocatori di Juventus e Lazio, che quattro giorni più tardi fanno la Supercoppa, e tra Italia e altre nazionali voleranno via credo 15 giocatori della Juventus e 11 del Napoli. Sarà difficile per, scusate, della Lazio, sarà difficile per Conte e Petkovic preparare in maniera adeguata questa partita. Fabio da Napoli, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Io intervengo per il mercato del Napoli. A suo giudizio Gargano farebbe bene oppure no il Napoli a trattenerlo, tenuto anche conto che dimostrò tantissimo entusiasmo nel momento in cui andò all'internazionale, e questo ha molto offeso noi tifosi. Comunque, al di là di questo, da un punto di vista tecnico ritiene utile tenerlo oppure no? E poi, se mi permette, vorrei chiedere come spiega che gli attaccanti di oggi segnano valanghe di reti rispetto a quelli degli anni 70-80? Sono più bravi oppure è cambiato qualcosa che insomma gli facilita nel segnare? Fabio, io credo che intanto siano cambiate le regole, basti vedere l'evoluzione del fuorigioco, ad esempio, che penalizza sempre di più la difesa e favorisce sempre più il numero di gol. Oltre al fuorigioco, la stessa regola del fallo su chiara occasione da rete, che certamente dissuade i difensori da alcuni interventi. Poi probabilmente il calcio è diventato tatticamente più spensierato, sicuramente in giro per il mondo, in parte anche in Italia. 20 anni fa, 30 anni fa si difendeva quasi tutti con la marcatura a uomo, con il libero, erano difese più arcigne. Poi, se vogliamo mettere, si giocano anche più partite, quindi è difficile paragonare i numeri dei grandi attaccanti di 30 anni fa con i numeri dei top player, come va di moda dire, di questo inizio di 2000. Saluto Federico Casotti, collega di Sport Italia. Ciao Federico. Ciao, buona giornata a tutti. Perché oggi non è un venerdì qualsiasi, oggi è venerdì in cui celebriamo l'inizio di due campionati, ed in particolare torniamo indietro, perché uno dei due campionati è quello tedesco, torniamo indietro al 25 maggio. Ribery di tacco, Robben in area, Robben! Arjen Robben trova il gol che probabilmente manda in paradiso il Bayern Monaco, in un colpo solo regala la Coppa al Bayern. Ma finisce qui il Bayern Monaco, trionfa Wembley, vince la sua quinta Coppa dei Campioni. 25 maggio, la finale tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Oggi questa sera riparte la Bundesliga con la sfida proprio del Bayern di Monaco contro il Borussia, ma questa volta il Mönchengladbach. Federico, si parte con un duello, sarà un duello, poi parliamo anche del campionato francese, dove sembra esserci un altro duello, quello tra Paris Saint-Germain e Monaco. In Germania tutto fa pensare che ci siano le due grandi e poi dietro si faccia fatica a tenere il ritmo. Sì, il bello della Bundesliga di questi anni è sempre stato il fatto che, è vero, c'è una corazzata Bayern che è, per potenza, per blasone, probabilmente anche per peso politico, è sempre stata una spanna davanti a tutti, ma che il Bayern ogni tanto ci cala stagione, ogni tanto sbaglia la stagione, e quando sbaglia la stagione il Bayern il campionato lo può vincere chiunque, perché basta vedere l'Albo d'Oro, l'ha vinto il Wolfsburg, l'ha vinto lo Stoccarda, lo stesso Borussia Dortmund, insomma negli ultimi anni diciamo che la Bundesliga, quando il Bayern scivola, sembra voler dare comunque una possibilità a tutti. L'impressione che si ha da un paio d'anni a questa parte è che ci sia una tendenza, non dico a una ispanizzazione della Bundesliga, però diciamo che il divario tra il Bayern e le altre lo scorso anno è stato imbarazzante. L'impressione che il Borussia Dortmund, vuoi per una politica felice, vuoi per anche gli introiti della scorsa stagione, sia l'unica squadra in grado di tenere il passo, cosa che non mi paiono in grado di fare le altre, anche se magari con ottimi nomi, penso al Bayer Leverkusen, penso al Werder Brema o a nobili decadute come l'Hamburgo, ecco. E quindi il rischio, del quale secondo me in Germania si sono già accorti e al quale proveranno magari a porre rimedio, cosa che non hanno fatto in Spagna, è proprio quello che si crei una disparità troppo forte tra una squadra che è a due giri, due o tre giri sopra le altre, un altro paio di squadre vogliamo che tengono testa e tutte le altre che sono completamente fuori dai giochi. La forza della Bundesliga degli ultimi anni è stata quella comunque di avere un certo ricambio al vertice, tenendo presente la costante del Bayern Monaco. se le distanze diventano così ampie si va a perdere questa ricchezza e di conseguenza poi anche la PIL del campionato va un pochino incalando. Sì, la grande attrazione è Pep Guardiola, il suo mi pare di poter dire non è stato un atterraggio sul morbido, non tanto per la finale di Supercoppa tedesca che ha perso contro il Borussia Dortmund e quindi ha di fatto certificato già a luglio che non potrà fare meglio, anzi non potrà fare nemmeno come Jupp Heynckes che gli ha lasciato in eredità un triplete difficilissimo da gestire. Mi sembra che Guardiola non sia atterrato sul morbido perché si è accorto comunque che le attese, le aspettative sul Bayern di Monaco sono altissime. Leggevo che dopo aver vinto 5-0 nel primo turno di Coppa di Germania ha capito che ad esempio qualcuno si era lamentato, aveva storto il naso perché al Bayern certe partite sono abituati a vincerle con 7-8 gol di scarto. Ma forse siamo anche un po' all'esagerazione probabilmente, ma il Guardiola nel momento in cui aveva accettato la guida del Bayern Monaco sapeva di imbarcarsi comunque in un'avventura dove le esigenze, dove le pressioni erano altissime, e sicuramente non si aspettava che Heynckes completasse la stagione perfetta, perché comunque a gennaio c'erano i presupposti per una tripletta, non però la concretizzazione, ecco. Io ritengo comunque che Guardiola, per il tipo di filosofia che porta con sé, abbia fatto la scelta giusta nell'andare al Bayern Monaco. Se lui davvero vuole portare in giro per il mondo il modello Barcellona, non ha molte società dove poter provare. Un tempo c'era l'Ajax, che era, se vogliamo, la fotocopia o comunque è comunque il germe da cui è nato il modello Barcellona portato avanti e sublimato da Guardiola. L'Ajax, per ovvi motivi, in questo particolare momento del storico del calcio europeo non può essere una sede, una scelta competitiva. E il Bayern Monaco sì, non dimentichiamoci che il Bayern Monaco prima di Heynckes è stato allenato da Louis van Gaal, e van Gaal, pur con tutte le sfumature di un personaggio che sicuramente è un personaggio molto particolare, ma Van Gaal è comunque una traccia e una filosofia di gioco per certi versi simile, assimilabile a quella l'aveva lasciata, sempre lasciata. Certamente. Quindi diciamo che il Bayern Monaco può essere l'Ajax che era l'Ajax degli anni 70, cioè una squadra che può incarnare allo stesso modo filosofia di gioco e anche la disponibilità, diciamo, i mezzi economici per poterla portare avanti con credibilità nel calcio moderno, dove senza i soldi oggettivamente fai poca strada. Per chiudere abbiamo meno di un minuto, parte questa sera anche la Ligue 1 francese, Montpellier PSG è la sfida tra le vincenti degli ultimi due campionati. Io però ti voglio fare una domanda secca, anche un po' provocatoria: salterà prima Ranieri sulla panchina del Monaco, perché a me sembra un dead man walking, oppure l'intesa un po' appiccicata con lo scotch tra Ibra e Cavani? È una bella domanda, ma io penso che siano due situazioni molto, molto magmatiche. La posizione di Ranieri è solida fino a prova contraria. Adesso vedremo già dalla prima partita in casa con il Bordeaux, in casa del Bordeaux, cosa combinerà il Monaco, che però mi pare che si sia ripreso nel precampionato dopo un avvio barbettante. È ovvio che Ranieri sarà sulla graticola, ma qualunque allenatore con quel tipo di proprietà e con quel tipo di mercato sarebbe comunque un allenatore sotto pressione. A Parigi io resto dell'idea che Ibra e Cavani possano coesistere, il dubbio è secondo me se Laurent Blanc riuscirà davvero ad avere il carisma e la presa giusta sullo spogliatoio, riuscendosi a levare quella etichetta di allenatore a tempo che nessuno, fino a prova contraria, gli toglierà, perché tutti hanno la sensazione che nel 2014, a meno che Laurent Blanc non faccia il triplete, e forse nemmeno in quel caso, ma tutti hanno la sensazione che nel 2014 l'allenatore del Paris Saint-Germain sarà un altro, sempre sì, francese, ma sarà un altro. Io però ho il dubbio, ed è tutto da verificare, se Ibrahimovic abbia voglia di convivere con Cavani. Il mercato chiude il 2 settembre e ho l'impressione che negli ultimi 10 giorni potrà cambiare qualcosa. Grazie a Federico Casotti. Grazie a voi, grazie a te, buona giornata a tutti. E intanto Dalibor, Sidic, ancora lui, problemi nel giocare il pallone con un solo piede, attenzione alla conclusione da centrocampo, e c'è il super gol di Lazzari, e questa è una perla, che sicuramente impreziosisce questa partita con il gol da centrocampo di Lazzari. Volevi un giocatore che concludeva da fuori, eccolo qua. È bellissimo, veramente incredibile, questo è un grandissimo gol per il calcio, ottimo, favoloso. E intanto celebriamo anche questa perla di Lazzari. Ieri sera, io non so se l'avete vista, allo stadio di Trieste nel preliminare di Europa League, un gol da più di 50 metri contro il Sirocchi. Va bene, il portiere si sarà addormentato, era fuori posizione, tutto quello che volete, ma quando un giocatore si prende comunque la responsabilità di provarci da quella distanza e poi fa gol, secondo me va solo applaudito. Agostino che scrive al 349-238-6666, la Bundesliga fa 44.000 spettatori a partita di media, di che cosa parlate? Nessuno dice che la Bundesliga è in crisi, anzi, però è evidente che può esserci un problema se il campionato è quello dell'anno scorso, e cioè un campionato deciso a marzo, perché poi lo spettacolo lo dà anche la capacità di essere aperta come competizione fino all'ultimo. L'anno scorso non lo è stato, tradizionalmente questo è stato il punto di forza del campionato tedesco. Vedremo che cosa succede quest'anno, anche se le premesse sono quelle di un duello tra Bayern e Borussia. Ha parlato Moratti ieri, ha parlato sulla trattativa con Toir, sentiamolo. Credo che andremo avanti a scambiarsi informazioni, ne sanno di più gli avvocati di quello che posso sapere io, e quindi non so dire. La chiusura, per fare una chiusura bisogna essere d'accordo su tutto, quindi si parla di continuare dopo Ferragosto. No, è complessa come tipo di cosa, quindi come tale bisogna essere rivista e che tutto sia ben fatto. 800 24 00 24, che Moratti ne sappia meno dei suoi avvocati, bah, non lo so, io non ci credo. Antonino dalla provincia di Bergamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, volevo ne sa meno dei suoi, ne sa meno dei suoi avvocati, secondo lei, Moratti, no? Come? Ne sa meno dei suoi avvocati, Moratti, della trattativa. Hai Moratti. Come tanti, come tanti nel mondo del calcio. Come tanti. Antonino, prego. Niente, volevo riprendere un po' il discorso di 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, quando ha telefonato Ordine, sì. E poi l'ascoltatore dopo, che si lamentava del comportamento di Galliani. Io non voglio fare l'avvocato difensore di Galliani, però mi ricordo alcuni dirigenti bianconeri che hanno portato la Juve in Serie B, che corrompevano i giocatori, fa finta di star male. No, corrompevano però, no. Antonino, poi ne parliamo, però usiamo i termini giusti, perché corrompevano vuol dire una cosa e non è questo il caso. Era un modo di fare mercato molto aggressivo, che è anche finito sotto inchiesta. Sicuramente io penso che le persone a cui lei si riferisce non fossero nemmeno le uniche, però corrompevano, no? Prego Antonino, dai. No, hanno invitato un giocatore dell'Inter a far sì che stesse male, che era sempre infortunato, così poi è andato alla Juventus a zero soldi praticamente. Era questo il passaggio che volevo chiarire, visto che si lamentavano del comportamento di Galliani. No, ma che il mercato non sia un mondo per verginelle io credo che sia abbastanza evidente a tutti, non lo è stato in passato, non lo è nemmeno in questo momento, del resto io l'ho ricordato in questi stessi giorni, c'è un altro giocatore in scadenza di contratto nel 2014 che è Zuniga, che a quanto risulta viene trattato senza nemmeno tanto passare dal Napoli, da Inter e Juventus. E quindi di che cosa stiamo parlando? Dopodiché, se la Fiorentina ritiene di essere vittima di qualcosa, fa benissimo a mio parere ad impuntarsi e a cercare di mettersi di traverso, perché l'Aic non finisca al Milan, non ci finisca a parametro zero tra un anno e non ci finisca anche per meno di 10 milioni se quello è il prezzo che è stato fissato in questo momento. Grazie comunque Antonino. Pasquale da Mantova, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Senta, io volevo riprendere un attimino quello che ha detto l'ascoltatore che mi ha preceduto. Sì. Però riguardo proprio al mercato del Milan di questi anni, perché comunque diciamo che il Milan si è sempre inserito nell'acquisto di giocatori o a fine, diciamo, a fine, a fine, diciamo, contratto, oppure si è inserito in trattative dove il giocatore era comunque non soddisfatto della propria società e quindi lo andavano a pescare, come vediamo il caso Ibrahimovic, lo stesso Balotelli e adesso lo stesso Montolivo, dove è stato mandato via un giocatore come Pirlo che a guardare le ultime due stagioni credo che si stiano ancora mangiando le mani a Milano, però cioè nel senso mi sembra che il Milan negli ultimi anni abbia diciamo usa un modo proprio strano di fare mercato, ecco, io almeno trovo questo, poi che sia giusto o sbagliato questo sì, non però ha. Pasquale, lei mi ha citato anche molti casi in cui il Milan ha operato benissimo sul mercato, ad esempio andare a prendere Ibrahimovic che era in rotta con il Barcellona è stato un capolavoro, è stato un capolavoro anche dal punto di vista economico per Galliani. Non è detto che andare a prendere giocatori che sono in scadenza di contratto o andare a prendere giocatori che hanno difficoltà con le proprie società di per sé configuri un comportamento non regolare, antisportivo o troppo aggressivo sul mercato. A me sembra che da questo punto di vista il Milan ci abbia guadagnato negli ultimi anni. Sull'operazione Pirlo evidentemente ci ha perso, Pirlo però l'ha spiegata benissimo, non è stata una questione economica, era stata una questione di scelte, di stimoli, di motivazione. Oggi su molti giornali c'è l'intervista con cui secondo me Pirlo apre anche la questione del rinnovo con la Juventus e dice parole non troppo diverse da quelle che hanno caratterizzato l'ultimo periodo della sua avventura al Milan. Io non so se la Juventus ha in mente per Pirlo a partire dalla prossima stagione un ruolo assolutamente da protagonista, assolutamente centrale. Se così non fosse, credo che in primavera le strade di Pirlo e della Juventus fatalmente si separeranno. Grazie comunque. Giorgio D'Ancona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Prego. Sì, prego. No, salve. Io volevo intervenire su uno spettatore, un radioascoltatore di ieri, parlava della piramide del calcio, cioè della base del calcio, dove parlava di dilettantismo, che è una realtà floridissima. Abbiamo 700.000 tesserati tra i dilettanti, 12.000 società, e si lamentava degli alti costi della federazione quando diceva stanno ammazzando il calcio dilettantistico perché lui spendeva circa 10.000 euro, salvo sì. Poi continuare nella telefonata e dire che la sua società andava a spendere sui 150.000 euro per fare un campionato. Sì, allora no, c'erano società, non la sua, ma c'erano società anche a suo livello che spendevano quella cifra, prego. Ecco, però io questo volevo dire, il problema è sempre questo, diamo le responsabilità ad altri quando siamo noi stessi dirigenti che andiamo ogni volta anche in prima categoria e in seconda categoria ad andare a fare delle aste sui giocatori. Iniziamo a ritornare coi piedi per terra, noi dirigenti di società dilettantistiche per primi. Se spendiamo 150.000 euro è perché andiamo in cerca di giocatori di 35 anni a suon di 1.000 euro al mese ognuno. Sì, sì, io ripeto quello che ho detto ieri, il calcio italiano, lo sport italiano in generale, ma qui parliamo del calcio, ha bisogno di una dieta dimagrante, ce l'ha bisogno nelle società di vertice, il fair play finanziario da questo punto di vista sta aiutando, poi c'è la crisi e basta leggere tutti i giorni i giornali sportivi per capire le difficoltà con cui i club italiani si muovono sul mercato, però la dieta serve anche ai livelli intermedi e ai livelli più bassi, compresi i dilettanti, dovranno essere tagliate come numero le società professionistiche, le società semiprofessionistiche. Il risultato è che fatta salva, secondo me, la pratica di base, quella giovanile, quella che poi è il terreno su cui cresce tutto il movimento, se anche le società di dilettanti non hanno la possibilità di giocare, non riescono a stare in piedi, in questo momento probabilmente non ha senso che proseguano. Questo è quello che penso io. Raffaele dalla provincia di Napoli, buon pomeriggio. Pronto, buongiorno, grazie per essere convocato. Volevo sapere una cosa, come giudica fino adesso il calcio mercato, la campagna acquisti della Roma e come vede questo nuovo tecnico Rubi Garcia? E poi le volevo fare una domanda sulla Formula 1. Se non pensa che, con tutto il rispetto per Alonso e la Ferrari, che è la macchina che prevale sempre su attualmente la Formula 1 e quindi attualmente sia la macchina di, come si chiama, non la McLaren, l'altra macchina. Sì, la Red Bull. La Red Bull e l'altra che... E la Mercedes, sono sicuramente... La Mercedes, sono in netto, diciamo, per resto tecnologico rispetto alla Ferrari. La ringrazio. Grazie, prego. La Red Bull è semplicemente superiore, punto, non solo alla Ferrari ma anche alle altre. Quanto ad Alonso, Raffaele, io però credo che con tutti i limiti che possa avere la Ferrari, dal pilota che si ritiene il numero uno al mondo ancora, sia lecito attendersi anche quel decimo in meno, quei due decimi in meno in prova che fin qui non ci sono stati, non sono arrivati. I risultati della Ferrari in prova sono pessimi in questa stagione e io credo non soltanto per colpa della macchina. Quanto invece alla Roma, fin qui il mercato è assolutamente promosso, il lavoro di Rudy Garcia è assolutamente promosso anche per la capacità che ha avuto di rigenerare i giocatori che aveva già in rosa. Penso ad esempio a Pjanic, che era in vendita fino a un paio di settimane fa e adesso sta diventando un elemento imprescindibile di questa Roma. Il voto sul mercato però aspettiamo a darlo tra un paio di settimane, perché ad esempio dovesse partire Osvaldo come sembra, io non so se la Roma ci ha guadagnato nel cambio tra Gervinho e Osvaldo, ad esempio. E poi sorrido quando leggo che a questo punto Sabatini sta cercando un attaccante da 20 gol e allo stesso tempo sta cercando di cedere Osvaldo. Non riesco a capire, al di là dei problemi ambientali, quale sia il senso di questa operazione. Intanto Montella, commentando il sorteggio di Europa League che vede la Fiorentina opposta nel preliminare agli svizzeri del Grasshoppers, ha detto: è l'avversario peggiore che poteva capitarci, a grande esperienza europea e arriva dalla Champions League. Intanto per il mercato è saltato il trasferimento di Maxi Lopez all'Al Nasr, perché l'attaccante non si è convinto di cambiare campionato e vita e quindi rientra a Catania. Vedremo se si fermerà. C'è una voce che gira invece: l'agente di Eto'o avrebbe detto Napoli è un sogno per Samuel Eto'o, e quindi aprendo a una trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni, anche se ci sono evidenti problemi di costi, soprattutto legati all'ingaggio. Certamente Eto'o è consapevole che non guadagnerà più i 20 milioni di euro che gli ha garantito fin qui l'Angi e i fondi quasi illimitati di Kerimov, però anche dovesse dimezzarsi lo stipendio, siamo fuori quota rispetto a quello che può permettersi il campionato italiano. Andiamo a Mosca da Giorgio Rondelli. Ciao Giorgio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Finalmente domani i mondiali di atletica leggera, siamo a un anno dalla grandissima vetrina delle Olimpiadi. Che mondiali dobbiamo aspettarci, provando così ad inquadrarli per grandi temi? Ma possiamo dire che ci aspettiamo dei mondiali dove l'atletica, scossa gli ultimi scandali doping della famosa Black Sunday del 14 luglio, ritrovi credibilità. Sono mondiali grandi numeri, perché ci sono 206 delle 212 nazioni affiliate alla IAAF, ma anche mondiali grandi assenze, un po' proprio per i problemi legati all'antidoping, con la perdita di, in particolare di Tyson Gay, però anche delle più che di Asafa Powell, che nemmeno si era qualificato per questi mondiali, ma anche per le altre giamaicane, Sharon Simpson e Veronica Campbell Brown, e poi anche altri tanti diversi infortunati, in primis John Blake, che era il grande rivale di Usain Bolt proprio sui 100 metri, campione uscente, ma poi anche altri, la britannica Jessica Ennis, Blanka Vlasic e quant'altro. Però insomma, le gare domani cominciano, l'atletica ha sempre dimostrato di trovare slancio da queste grandi manifestazioni, vediamo se sarà così anche domani. È chiaro che il personaggio chiave rimane sempre Usain Bolt. Mi sembra, Giorgio, che sia sbarcato a Mosca con tutta la pressione del mondo sulle spalle. A questo punto anche vincere i 100 metri, e in tanti danno questa vittoria per scontata, potrebbe non bastare, almeno a livello di immagine. È diventato con la sua immagine quasi l'ultima garanzia dopo la domenica nera del doping, che ha spazzato tante certezze. Ma sai, lui ha proprio nei giorni della vigilia, anche nelle ultime settimane, ha reagito con una certa anche animosità a domande sul doping, perché molti si chiedono perché tutti quelli che hanno corso nella storia sotto i 9,78 sono stati trovati positivi, e lui che sarà pure extraterrestre, che forse addirittura sotto i 9,60 dovrebbe essere l'unico pulito della situazione. Finora è stato così, adesso bisognerà vedere anche una forma di controllo indiretto, che però può lasciare il tempo che trova, ma sono anche i tempi che farà, perché quest'anno ha corso il 9,85 e 19,73, che sono esattamente 2 decimi e 7 centesimi più piano del suo record del mondo sui 100 e 5 secondi, esattamente il doppio, 0.4 sui 200 metri. Quindi vedremo che cosa riuscirà a fare Usain Bolt, che sicuramente è un po' accerchiato in questo tipo di situazione. Secondo me sui 100 non sarà così facile, perché comunque l'americano Justin Gatlin, che l'ha battuto al Golden Gala di Roma lo scorso 6 giugno, era un cliente molto pericoloso, però Usain ha già dimostrato in altre occasioni di poter poi reggere il peso della responsabilità, anche per quel talento che era straordinario, che ricordiamoci che con quest'anno sarebbero 5 anni che è sulla cresta dell'onda, perlomeno a livelli di vittorie, se non di record mondiali, che sono risalgono al 2008-2009. Io non voglio, Giorgio, non voglio avventurarmi in lavoro di interpretazione del tuo pensiero. Mi pare però di capire, in questo paragone di tempi che tu fai tra le prestazioni dell'anno scorso di Bolt e quelle di quest'anno, che la mano sul fuoco non ce la metti però sull'assoluta garanzia di pulizia. Ma guarda, non ce la metto, perché voglio dire, essendo anche un tecnico, così, per l'amor di Dio, lui finora sembra che sia stato ipercontrollato, però cerchiamo anche di capire che un Bolt positivo sarebbe il crollo della credibilità dell'atletica. Ma insomma, seguendo un po' gli ultimi anni, le vicende anche da detto ai lavori, in un articolo Usain Bolt, is Usain Bolt on steroids, si parlava che nel suo staff c'erano personaggi legati allo scandalo Balco. Lui poi ha smentito, però poi questi personaggi sono tornati fuori nelle ultime settimane e quant'altro, anche con in particolare di un certo messicano che si chiama Angel Heredia, quando lavorava con Victor Conte, poi fece il delatore e la scampolisce, quando andò a lavorare con Usain Bolt, si parla del 2009, cambiò il cognome in Angel Hernandez, quindi... Insomma, sì, è antipatico raccontare queste cose. È antipatico dirlo, però sono notizie che nell'ambiente circolano. O perlomeno sono circolate qualche tempo fa. Adesso in tutto insomma, sembra più raffreddato, però rimane il fatto che John Blake, per un dolore muscolare, che è un suo compagno di allenamento, qui non c'è, e che finora Usain ha corso più piano del passato. Poi, detto questo, mi fermo qui. Certo, per chiudere, gli italiani, c'è qualche speranza di medaglia? Ci dobbiamo aggrappare ai salti di Daniele Greco, di Fabrizio Donato? Possiamo sperare qualcosa dalle donne? Beh, è una nazionale sicuramente rinnovata. C'è qualche problema di collegamento con Giorgio Rondelli da Mosca, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto scrive Valerio: in base a che cosa sarebbe colpa di Alonso se la Ferrari non riesce ad andare forte in prova? E mi chiede se stiamo difendendo Montezemolo. La risposta è no, non stiamo difendendo Montezemolo. La Ferrari non va forte in prova certamente per colpa della macchina, però è anche vero che mi sembra che nell'ultimo anno l'apporto a livello qualitativo di Alonso non sia più quello del numero uno al mondo, e mi sembra che Alonso anche dalle sue parole sia abbastanza nervoso. Credo resterà alla Ferrari, anche perché altre soluzioni mi sembrano assolutamente impraticabili, però certamente la Ferrari da lui si attende un cambio di passo. Siamo ancora con Giorgio Rondelli, ci sei Giorgio? Ci sono. Per chiudere allora il discorso sulla nazionale italiana dei mondiali di atletica leggera che partono domani. Come stavo dicendo, ci si attende che questa squadra giovane rinnovata faccia bene a livello di avere un maggior numero di finalisti, di più atleti che facciano i loro primati personali. Per le medaglie, gli indiziati sono soprattutto Daniele Greco e in seconda istanza Fabrizio Donato nel triplo e Alessia Prost nel salto in alto. qualcuno parla molto bene di Valeria Straniero che domani sarà in gara nella maratona, staremo a vedere. Certo che qui con tanta gente che fa atleta, tanta gente che va forte, sarà molto dura. Difficilissimo. Grazie a Giorgio Rondelli. Grazie a voi. Grazie a Giorgio Rondelli. Noi siamo quasi in chiusura. A proposito di calcio, ieri c'era anche il debutto contro una grande europea della Fiorentina, molto attesa. Non è andata bene, la Fiorentina ha perso 2-0. Sentiamo Montella. Il risultato, perché abbiamo dimostrato che siamo lontani, abbiamo bisogno di questa partita, abbiamo bisogno di partite di questo tipo, ma non tanto di gambe, perché abbiamo corso, anzi rincorso moltissimo, quindi fisicamente stiamo bene, che non eravamo, non siamo ancora pronti mentalmente a questo tipo di partite, come ambiente, come livello dell'avversario, come pubblico, come qualità degli avversari, quindi servono, sì, servono e vanno fatte. Quindi è una squadra che ha corso tanto, quell'impegno è stato totale, ma non l'abbiamo fatto da squadra, individualmente, ma non per egoismo, ma perché secondo me non eravamo concentrati al 100%. Quindi... E quindi questa è la delusione di Montella. Per chiudere ancora sul mercato, a minuti attesa la firma di Rolando, difensore del Porto, che andrà a rinforzare il pacchetto di Mazzarri. Ci sono voci che dicono che Chivu potrebbe ritirarsi perché il problema al piede non è superato. L'Inter attende nelle prossime ore anche il via libera da Wallace in prestito dal Chelsea, e poi proverà a lavorare su un centrocampista. Vi ripeto ancora invece quello che è l'esito del sorteggio di Nyon per la Champions League preliminari. Il Milan apre il 20 agosto ad Eindhoven contro il PSV a Eindhoven, ritorno il 28 a San Siro. Gli altri accoppiamenti sono Lione Real Sociedad, Schalke 04 Metalist Kharkiv, Pacos Ferreira, Zenit San Pietroburgo, e soprattutto la sfida più difficile, quella fra Fenerbahce e Arsenal. Per quanto riguarda invece l'Europa League, l'accoppiamento delle due italiane, la Fiorentina contro gli svizzeri del Grasshoppers e l'Udinese contro lo Slovan Liberec. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con tutti i convocati è per lunedì a partire sempre dalle 14. Io saluto e ringrazio Filippo Aureggi per l'aiuto in regia, Franco Piantanida, autore di questa puntata. Appuntamento lunedì alle 14. Un saluto da Giovanni Capuano.